cosa devo fare. Ho letto un altro libro sulla sofferenza, bello, utile, come tutti. Ma anche questo non ha risposto ad una mia domanda, perché di solito camminano tutti sulla stessa strada. In genere, il tema della sofferenza è affrontato rispondendo almeno a quattro domande. Perché si soffre? Dove? E Dio quando si soffre? Cosa dobbiamo capire nella sofferenza? Perché Dio non interviene? Le risposte più che giuste sono pressappoco queste. Si soffre perché facciamo parte di un creato imperfetto, abitato da persone imperfette. Quando si soffre non siamo soli, ma Dio soffre con noi. La sofferenza è uno strumento divino per modellarci e insegnarci a comprendere Dio e il prossimo. Che Dio non intervenga nella sofferenza non è vero, perché moltissime volte siamo liberati inaspettatamente da pericoli, disagi e malattie. Quando non interviene è perché nella sua volontà ha deciso che le cose siano così. Con queste domande e principi base sono sviluppati molti pensieri, dei quali ho tratto spesso molto beneficio, ma nel profondo del mio essere rimane un interrogativo insoluto, in relazione al quale comprendo anche perché in genere non si è affrontato. Perché è molto pratico e, quando si tratta di cose pratiche, spesso è meglio dare delle risposte vaghe, dato che nelle pratiche difficilmente due situazioni apparentemente simili saranno mai esattamente uguali. Per esempio, le coppie che si divorziano, tutte arrivano alla separazione, ma la responsabilità o colpa può essere solo del marito o solo della moglie, oppure di entrambi o anche di estranei. Qual è, allora, questa domanda che mi attanaglia e alla quale non trovo una risposta precisa in questi libri, che affrontano l'argomento della sofferenza? È molto semplice. Che cosa devo fare? Come devo comportarmi? Per me, il punto da risolvere quando mi trovo in grosse difficoltà non è tanto avere una risposta filosofica ai tanti e inquietanti perché, ma ho tremendamente bisogno di capire come deve essere il mio comportamento. Definendo la risposta filosofica, non intendo disprezzare tutti questi ragionamenti che aiutano a dare una risposta ai nostri giusti interrogativi, perché sarei profondamente incoerente con me stesso, avendo per tutta la vita sempre cercato una risposta alle mie infinite domande in merito a Dio, alla vita e alla comprensione della Scrittura. Come devo ringraziare tutti coloro che hanno scritto dei libri, i quali mi hanno aiutato a trovare serenità alla mia mente, quasi tormentata da infiniti dubbi. Ed è grazie anche a loro se oggi ho le risposte ai soliti quesiti sulla sofferenza. Ecco perché quando mi trovo in grosse afflizioni, non mi aiuta tanto il sapere che quell'afflizione è per il mio bene, che Dio soffre con me o perché Dio non interviene. Danno serenità alla mia mente. È vero, ma in questi momenti ho bisogno di sapere cosa devo fare, come devo comportarmi. Facciamo un esempio limite ma molto comune in molte coppie, anche se con gradi di gravità diversi. La ragazza che hai scelto dice di no alla tua proposta di fidanzamento, ma dopo 2 settimane, cambiando opinione, si dice propensa ad accettarla. Tutti contenti, andate a comunicare la notizia alla comunità alla quale appartenete, ma al momento di dichiararlo pubblicamente lei avanza dei dubbi. Tu metti a posto tutte le cose e si arriva al matrimonio con un burrascoso fidanzamento. Se dal mattino si conosce la giornata, quest'alba non ha di certo mentito. In seguito, questa sposa vive il matrimonio con un drammatico conflitto. Tutto in lei si ribella al suo matrimonio, ma la propria coscienza l'obbliga a rimanere fedele all'impegno preso. Qualcuno potrebbe anche obiettare che il ragazzo non avrebbe dovuto affrontare un matrimonio con simili prospettive. È vero, ma è anche vera però l'esistenza di tantissimi divorzi nei quali sono sfociati dei stupendi e meravigliosi fidanzamenti. Una cosa è certa, il merito di questa sposa è quello di rimanere fedele nonostante il suo dolorante conflitto interiore. E il marito? Come deve comportarsi? Il marito, con una moglie che desidera non essere sposata già fin dal fidanzamento? O meglio, chi è in grado di comprendere cosa significa vivere e convivere con un coniuge quale non vuole condividere la propria esistenza con la persona che ha comunque scelto di sposare. Purtroppo, in questa situazione si trovano moltissime coppie non divorziate ma con un divorzio silenzioso e infernale. È più che vero che tutto coopera al bene per quelli che amano Dio. È altrettanto più che vero che il coniuge che abbiamo ci è dato come un dono per migliorare se stessi, come è più che vero che non devo pormi il problema di aver o meno sposato la persona giusta, ma piuttosto se io sono la persona giusta per il mio coniuge. Non è questo il quesito che mi pongo. Il problema della sofferenza, per quanto mi riguarda, non è un quesito che non mi lascia dormire, perché prima di tutto fa parte dell'esistenza umana. Poi sono cosciente che l'amore è composto non solo di gioie idilliache, ma anche di sofferenza. Quando ami un amico, soffri per lui quando si trova in gravi difficoltà. Se ami la comunità alla quale appartieni, soffri se questa ha un percorso sbagliato. Così, se ami il tuo coniuge, soffri se lo vedi in grandi difficoltà fisiche e psicologiche. Tutto questo l'ho accettato. Ma non risolve il mio quesito di fondo. Come devo comportarmi? Qualcuno potrebbe, a ragione, citarmi la Bibbia. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Più che giusto, ma stabilito il principio, per me rimane ancora irrisolta la domanda: come devo comportarmi? Cosa devo fare per amarla? A questa domanda credo proprio che non ci sia una risposta, perché ogni uomo e ogni donna hanno un concetto dell'amore molto soggettivo. Incredibile, ma vero. A te piacciono i regali come espressione d'amore? Bene. Molte donne mi hanno confessato di non volere assolutamente regali. A te piace una serata intima, vissuta come una passeggiata al cinema o un viaggio in crociera? Molto bene. Ci sono donne e uomini che non ne vogliono sapere. Ringrazi tua moglie perché ti accudisce. Le dai un bacio sulla guancia come espressione di affetto? Sembra incredibile, ma anche in questo ci sono spose che desiderano non sentirsi lodate o toccate. Per alcuni sembra assurdo, ma in un matrimonio tutto è possibile, e per questo gli interrogativi rimangono. Cosa devo fare? Come devo comportarmi? Se dico di sì, non va bene. Se dico di no, neppure. Se parlo, sbaglio. Se non parlo, sbaglio lo stesso. Se intervengo, sono fulmini e saette. Se non intervengo, il temporale rimane. E facile comprendere che in queste situazioni non servono le risposte come «Dio vuole questo per il nostro bene», «Dio ci ama e soffre con noi». In questi momenti chi si trova in simili serie penose difficoltà, occorrono soluzioni pratiche, ma solo chi ha un compito di cura pastorale comprende l'urgenza delle risposte. Occorrono risposte pratiche, non teoriche. Tuttavia i principi divini sono variamente interpretabili. Quando si dice che il marito deve amare la moglie, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, e che la moglie deve essere sottomessa al marito, si citano dei principi divini più che giusti, ma spesso non tolgono i miei interrogativi. Cosa vuol dire nella pratica dare se stessi per la moglie? Cosa vuol dire per una moglie essere sottomessa al marito? Poiché non metto in dubbio che gli altri abbiano un cuore buono, se fosse così facile sapere cosa dover fare, lo farebbero tutti. Anche amare il prossimo come noi stessi è un grandissimo principio divino. Ma come devo amarlo? Occupandomi di lui, certamente, ma non sempre è facile. Quando ero fermo ad un semaforo, uno straniero mi chiedeva la carità, mentre fumava e beveva Coca-Cola. Gli risposi di no. Un miserabile non ha soldi per fumare e beve acqua, non una bibita. Chi devo allora veramente aiutare? Cosa devo fare? Interrogativi che dimorano nel mio cuore e che ancora oggi tengo presenti quando leggo la parola di Dio, la quale è in grado di dirmi cosa devo fare. Perché, se che è una cosa bella della parola di Dio, è la sua praticità. Il Dio delle Scritture non ci ha dato degli ordini teorici, ma pratici, come non uccidere e non rubare. Con questa fiducia continua a leggere la Bibbia, quale parola di Dio, non per uscire dalle fauci della sofferenza, ma per comprendere cosa devo fare quando ne sono sommerso. Quando ci si trova in una situazione gravosa e di sofferenza, per prima cosa occorre fare qualcosa. Cercare con tutti i mezzi e le possibilità di migliorare la situazione e di risolverla. Se ciò che si fa non porta risultati, si tenta ancora, si riprova da un altro punto di vista, perché in genere una soluzione esiste. Se dopo aver compiuto tutto quello che si ritiene opportuno non si hanno dei risultati incoraggianti o positivi, è arrivato il momento di accettare la situazione. Per accettare si intende che si tirano i remi in barca e si lascia che le cose continuino ad andare avanti come sono sempre andate. Quando è scritto nella parola di Dio per chi soffre, sieda solitario e stia in silenzio. Quando Dio glielo impone. Lamentazioni 3.28 vuol proprio dire che quando ti è imposta una situazione, o per usare un vocabolo pugilistico, quando Dio ti ha messo nell'angolo, non devi fare altro che incassare i pugni della situazione. Stia in silenzio vuol proprio dire non replicare, come Gesù che, nel soffrire, si comportò come una pecora muta. Stesso ordine è dato alle mogli che hanno un marito che le tratta male. 1 Pietro 3.1. Però, a mio avviso, non è ancora risolto del tutto il problema relativo al comportamento da adottare. È vero che devo stare in silenzio e accettare, ma cosa devo fare? Perché qualcosa devo pur fare se mio marito non mi sostiene economicamente. Se, come mi confessava un marito disperato, mia moglie si rifiuta da più di 6 mesi di avere rapporti sessuali. Devo insistere? Devo far valere i miei sacrosanti diritti oppure no? Se rinuncio, cioè rinuncio a me stesso, come Cristo è morto per la Chiesa, rimango una bestia irrequieta. Se non faccio proprio niente, la situazione non è risolta. Qualcuno potrebbe ricordare che Dio può tutto, può compiere miracoli, ed è vero, ma io ricordo che alcuni martiri sono stati in alcune occasioni liberati. Come Pietro, anche se in seguito Pietro è comunque morto poi da martire. Cosa devo fare allora? Agire, reagire. Con uno spirito di preghiera, mentre mi trovo in un labirinto di sensazioni e sentimenti, mentre sono confuso, frastornato con un turbinio di domande, risorgendo dalle ceneri, prendo una decisione, al passivo o all'attivo, non importa, anche se non so se è giusto o sbagliato. Con una ostinata fiducia che Dio è più grande dei miei errori e della mia valutazione sul bene e sul male. In fondo è quello che dice il profeta Isaia: chi tra voi teme l'Eterno e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre privo di luce, confidi nel nome dell'Eterno e si appoggi sul suo Dio. Isaia 50.10. La fede cristiana non è sempre certezza di quello che si fa, perciò, anche se sono preda della più completa confusione e paralisi mentale, prendo serenamente un rimedio, giusto o sbagliato che sia, fiducioso di cadere alla fine nella braccia eterne, Deut 33.27, amorose di un Dio, che ha una conoscenza completa del mio essere e conosce la mia immensa fragilità, composta di interrogativi e traumi mentali. Salmo 39.4. Se è giusto, avrò conferme da parte di Dio. Se è sbagliato, Lui mi farà comprendere ciò che devo ancora fare. Abbiamo un Dio meraviglioso. Ottobre 2011. Ellero.